404. Cardoni in teglia. I cardoni, detti volgarmente gobbi per la loro affinità coi carciofi, si possono cucinare come questi, numero 246. Se non che, dopo averli nettati bene, i cardoni dai filamenti di cui è intessuta la parte esterna, si deve dar loro metà cottura in acqua salata, gettandoli subito dopo nell'acqua fresca, onde non anneriscano. Tagliateli a pezzetti, infarinateli, e quando l'olio comincia a bollire, buttateli giù e conditeli con sale e pepe. Le uova frullatele prima e aspettate di versarle quando i cardoni saranno rosolati da ambedue le parti. Il cardone è un erbaggio sano, di facile digestione, rinfrescante, poco nutritivo ed insipido, perciò è bene dargli molto condimento, come indicato al numero 407. È poi tale la sua affinità coi carciofi che, sotterrando i fusti di quest'ultima pianta, quando non dà più frutti, si ottengono i cosiddetti carducci.